sotto pressione come sotto il fuoco del nemico, come il pedale della Plymouth sull'arrivo. Primo scritto nel sangue è l'attitudine, facci l'abitudine, duro come incudine, stile da biker fuori dal branco, pronto al contatto, sembramento alto ad ogni azione col comando, sa cosa fare, sull'obiettivo sa farti arrivare, mutazione strutturale, istinto animale, solo il più forte passa la storia, sulla maglietta lo dice lo slogan, preparatevi alla gloria, porta l'orgoglio di un milite, supera ogni limite, guida vostre critiche, taglia lingua vivere, WNC, Genova, Marassi, Muscle Car, Bodybuild, roba per i king, vieni qui, leggi sui tattoo la roba vera, porta un teschio sopra la bandiera nera. Non conta dove, quando e come, l'importante è farlo. Se vuoi qualcosa puoi tenerla ma solo lottando. Credi l'orgoglio è meglio non portarlo. Siamo già pronti per la gloria, la mia storia, non chiedo nient'altro. Ti piombo addosso come un panzer, sfondiamo stanze. La prestazione è impressionante tipo Neger Schwarzer. Qui non si parla di sostanze ma di costanze. Nelle mie braccia sul carico più pesante. Colluttazione tra pensare e azione. Ad ogni stacco un altro grido, sul cancello il colpo di un cannone. Punta all'onore, la mia voce aumenta di fervore. Da gladiatore si vive come si muore. Con la soglia non ho voglia di subir la noia. Se siete pronti a prepararvi tutti per la gloria. Sembra banale o solamente un'arte venatoria. Ma proponiamo il nostro modo di fare la storia. UNC nella street, super power lift. Che è diventato un nostro uomo, ringhia come un pitch. Sta scarrellando sul tuo collo e senti un altro click. Body build, super key, truppa d'elite. Non conta dove, quando e come, l'importante è farlo. Se vuoi qualcosa puoi tenerla ma solo lottando. Credi l'orgoglio è meglio non portarlo. Siamo già pronti per la gloria, la mia storia, non chiedo nient'altro. Non conta dove, quando e come, l'importante è farlo. Se vuoi qualcosa puoi tenerla ma solo lottando. Credi l'orgoglio è meglio non portarlo. Siamo già pronti per la gloria, la mia storia, non chiedo nient'altro.